Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Dai poco quando doni ciò che hai. Quando doni te stesso, solo allora dai veramente. Khalil Gibran. Siamo tutti donatori o potenziali donatori, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se non vogliamo dare nulla o pensiamo di non avere nulla da dare. Il dono, intanto buongiorno da Nicoletta, pensavo che è qualcosa che ci appartiene. L'uomo come animale sociale è proprio fatto per donare, il dono crea relazioni e le relazioni muovono il mondo, da sempre, verrebbe da dire dal dono di una mela. Che cos'è per voi il dono e quali caratteristiche deve avere per essere definito tale? Un tema che suggerisce una serie di riflessioni su cui da secoli si misurano filosofi, antropologi, economisti, scrittori, perché il dono può essere letto da tante prospettive differenti. Oggi proveremo ad analizzarne alcune e a proporvi alcune forme di dono, partendo dai racconti dei protagonisti. Ma intanto voglio salutare il professor Fabio Dei, che è in linea con noi, docente di antropologia culturale all'Università di Pisa. Buongiorno professore. Buongiorno, salve. Professore, nella tradizione antropologica il dono è una forma di scambio che crea legami tra le persone, è così? Sì, il dono è stato scoperto, per così dire, dalla tradizione antropologica del Novecento, a partire da quel famoso personaggio che è Marcel Mauss, come una forma di scambio fuori dal mercato, no? Come dire, è stata la scoperta che il mercato non è la forma naturale dello scambio, è una delle forme possibili, storicamente importante, ma non l'unica. E l'idea di molti antropologi è stata che nel dono lo scambio delle cose serve a creare legami sociali, mentre al contrario nel mercato sono i legami fra le persone che servono allo scambio di cose, quindi una visione utilitarista, no? Laddove nel dono la costruzione del legame sociale sarebbe fondamentale. Io credo che oggi non si tratti tanto, come talvolta si fa, di pensare al dono come qualcosa che era nel nostro passato e che è la nostra salvezza possibile nel futuro, no? Una sorta di utopia di riserva rispetto a quelle che sono fallite nel Novecento, ma di capire come invece il dono è presente costantemente nella nostra quotidianità. Sì. Cioè noi viviamo nel mercato, ma le forme di dono, cioè degli scambi volti alla costruzione di legami sociali, si intrecciano costantemente con le forme di scambio monetarizzato di mercato dentro le quali viviamo. Professore, però non sempre il dono crea relazioni, perché ci sono anche forme di dono spersonalizzato, in cui c'è un donatore ma il ricevente non è una persona, ma ad esempio un gruppo di persone. Penso alle donazioni che vengono fatte, che so, per aiutare le popolazioni in difficoltà, no? Sì. Non c'è dubbio, diciamo, nella nostra società di massa, diversamente dalle società di piccole dimensioni basate sui rapporti faccia a faccia che studiavano gli antropologi classici, il legame sociale che il dono crea è in qualche modo sì spersonalizzato, anonimo, è un legame con una comunità nel suo complesso, qualche volta addirittura con un'idea di umanità, no? Molto, molto generale. E in questo giocano un ruolo particolarmente interessante le forme di donazione di parti del corpo, la donazione del sangue, la donazione degli organi, delle cellule staminali, che sono state ovviamente prodotte e valorizzate dai progressi della medicina e che pongono però problemi molto interessanti anche per le scienze sociali. Perché da un lato, ecco, sono forme di dono anonimo, cioè noi crediamo oggi in molti paesi del mondo, non dappertutto, sì, e storicamente non è sempre stato così, però per esempio nell'Unione Europea oggi la donazione del sangue è una donazione volontaria, gratuita e anonima, sì, cioè chi dona non deve conoscere il ricevente, questo anche proprio per evitare che si crei poi un legame di obbligo, no? Certo. Nella teorizzazione classica il dono prevede che venga contraccambiato. Stato ricevuto venga contraccambiato, no? Quello che occorre evitare nella circolazione delle parti del corpo è questo, cioè un obbligo, e chi riceve il sangue per esempio spesso lo riceve come se fosse un farmaco di altro tipo, sì, e tuttavia in questo campo qui, come dire, avviene la cosa per noi molto interessante di una circolazione, di una raccolta di sangue, ma anche per gli organi vale la stessa cosa, che è molto più efficace, economicamente efficace e sicura se avviene fuori dal mercato, cioè con la decisione di porre il corpo fuori dal mercato come non monetarizzabile, che non nelle forme invece di mercantilizzazione. Professore, dono dunque siamo, è una frase che racchiude una grande verità, che è il titolo di un festival che si aprirà a Pistoia il 25 maggio e che per 3 giorni vedrà antropologi, filosofi, scrittori impegnati a discutere sui significati e sulle valenze del dono. Sottotitolo: donare, scambiare, condividere per una società più equa. Ci doni, per l'appunto, prima di salutarci, uno spunto di riflessione. Sì, ecco, intanto direi no, è che un tema interessante, perché diciamo, è importante che attorno al dono noi siamo in grado di pensare delle alternative, no, al nostro attuale sistema di vita economico o sociale, che insomma, secondo molti, come dire, ci porta verso un'autodistruzione, no? Quindi il dono è per noi una speranza. Si tratta di intenderlo, però io credo questo sia importante, non come una questione di altruismo inteso come un sentimento psicologico, un'attitudine individuale, no? Ma? L'altruismo è un sentimento, ma è un sentimento sociale che viene sollecitato e prodotto da particolari architetture sociali, no? Ecco, per esempio, quello che a me pare importante, per come dire, fare solo un'osservazione che spero possa sollecitare, è che nel dono delle parti del corpo il rapporto non è solo fra l'individuo che dona, che decide di donare, e lo Stato, il sistema sanitario nazionale, diciamo quello che riceve, ma avviene all'interno di della società civile, di associazioni della società civile che rappresentano un terreno intermedio fra il cittadino e la comunità, l'organizzazione che dona, no? Non è lo Stato come organizzazione burocratica, ma un'idea di comunità viva, quella che sollecita la donazione. Per molti questo, donatori, ecco, se si prende. Per questo, professore, possiamo proprio dire dono dunque siamo in questa dunque siamo, eccezione. Sì, perché appunto la scelta non è individuale, cioè il donare significa la volontà di porsi in una dimensione comunitaria. Professor Dei, grazie, so che lei sarà uno dei relatori del Festival di Pistoia e buona relazione, buon dono. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno. E noi riprendiamo gli spunti del professor Dei: donare parti di sé, sangue, organi, cellule staminali, una forma di dono molto particolare, per certi versi anche difficile, no? Perché si misura con una serie di timori, false credenze, ma anche con regole e indicazioni che non ammettono eccezioni, per questo per garantire assolutamente sia il donatore che il ricevente. È una legge sulla donazione degli organi. Per quale motivo lo Stato mi deve obbligare a donare gli organi? Ma lo Stato dice: no, io non ti obbligo. Io ti dico che se tu non vuoi donarli, basta che lo dici con una dichiarazione scritta. Vabbè, ma metti il caso che io mi dimentico di dirlo, una bella mattina mi alzo senza un braccio. Il mio parlare sulla donazione degli organi è stato preciso, non ci sono stati dubbi, nel senso che io ho voluto principalmente, cioè ho voluto parlare soltanto della legge. È chiaro che se io fossi stato contrario alla donazione degli organi, io l'avrei detto. Avrei detto: io sono contrario, ma io non sono contrario, non posso essere contrario, e quindi io sono favorevole, perché penso che se uno deve donare qualche cosa e dona qualche cosa del suo corpo, dico, è il massimo, è un atto, non credo che ci sia un atto più grande. Però io dovevo rappresentare anche con quella storia del braccio quelle persone che non si sentono di donare un organo, o perché hanno paura, oppure perché non hanno voglia, oppure perché non credono nella scienza, insomma avranno le loro... Io mi sono spiegato bene che questa cosa... Che ci sì, ci sono le persone che hanno paura, ma la paura è ingiustificata. Io mi sono spiegato bene che l'episodio che è capitato a lei è inverosimile, nel senso letterale, cioè non può capitare in nessun ospedale, mai, per nessuna ragione. Perché gli organi si prendono ai morti e non alle persone in coma, quindi lei si era svegliato, quindi era in coma, se fosse stato morto... Morto cosa vuol dire? Che il cuore si ferma? Morto vuol dire, per il problema della donazione degli organi, la morte del cervello. Encefalogramma piatto vuol dire morte di tutte le cellule di tutto il cervello. Ho capito. Abbiamo fatto un salto indietro nel 2001 in una trasmissione di Celentano in cui si parlava di donazione di organi e il professor Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, ha affrontato, no, il grande Celentano per mettere un po' i puntini sulle i. Il professor Remuzzi è qua in studio con noi, abbiamo il piacere di averlo qua oggi con noi per tutta l'ora. Professor Remuzzi, buongiorno, intanto grazie per essere buongiorno agli ascoltatori. Celentano è sempre un grande comunicatore. È un grandissimo, non un grande. Ecco, e in quella... Io ho provato a parlare di fronte a 12.000 persone negli Stati Uniti, ho avuto paura solo... ho avuto paura solo con Celentano, perché lui può veramente metterti in grandissima difficoltà se vuole. In quel caso lì è stato fantastico, perché lui ha precisato l'aspetto della legge, ha fatto capire che lui non poteva essere contrario, l'hanno criticato tutti, e lui veramente ha aiutato come nessun altro la causa della donazione degli organi in Italia. Basta pensare che noi prima del 2001 eravamo l'ultimo paese per numero di donazioni. Adesso siamo il primo paese in Europa. Non dico che sia merito tutto di Celentano, ma certamente Celentano ha portato un grandissimo contributo. Ci ha aiutato tantissimo. 800 24 00 24 se volete parlare con noi. Oggi parliamo di dono, parliamo naturalmente anche di doni, di donare parti di sé. Vogliamo confrontarci con voi se siete donatori, vogliamo parlare delle vostre esperienze, daremo voce anche ad alcuni donatori che ci raccontano che cosa loro ha fatto scattare quel click che gli fa dare una parte di sé in modo volontario, anonimo. Professor Remuzzi, quali sono le caratteristiche? Ma io vorrei raccontarvi una storia. È una storia che è capitata dalle mie parti qualche tempo fa, l'anno scorso, e che fa capire benissimo come le caratteristiche sono, capire che è inutile che noi portiamo gli organi in paradiso. Il paradiso sa che degli organi ne abbiamo bisogno qua. Certo. È tutto qua, non c'è un'altra caratteristica. E la storia è quella di un ragazzo che si chiama Maxim. È un ragazzo morto, veniva dalla Moldavia, era qui per lavorare ed è morto mentre lavorava. È caduto su una di quelle scale, sa, quelle scale che si estendono nel vuoto, che fanno paura solo a vederle. Sì. Viene un trauma cranico grave, lo portano in ospedale, in neurochirurgia, ma è subito chiaro che non si può fare nulla, serve la rianimazione. Poco dopo il ragazzo è in coma e dopo qualche ora è morto. I medici chiedono ai familiari di poter prelevare gli organi. Sì, certo, risponde la mamma. Pare che Maxim avesse detto: se mi succede qualche cosa, vorrei che i miei organi servissero a qualcun altro. Un ragazzo giovane, è una storia che ci insegna tanto, professor Remuzzi, che fa venire anche un po' il nodo in gola. Un po' il nodo in gola, e poi è una storia che fa riflettere. Ciascuno ne può trarre la morale che vuole, però quello che è successo in quei giorni lì, a Caravaggio questa cosa è successa, dove dicono che sia nato Caravaggio. Qualcuno dice che è nato a Milano, ma in realtà è nato vicino a Bergamo. E quella cosa lì farà anche apparire riduttivo, secondo me, il termine extracomunitario, perché qui parliamo di una persona che viene qui da lavorare, per lavorare da un altro paese, e lascia gli organi a noi. E c'è una cosa del genere che è successa qualche tempo fa tra arabi, palestinesi e ebrei. Quando hai in mano un cuore, è un cuore. Ha detto il chirurgo che si è occupato una volta di un ragazzo che si chiama Mazen Julan, un palestinese morto in un conflitto a fuoco. La famiglia ha lasciato gli organi a Israele e il chirurgo ha detto: cuore ebreo o cuore arabo, non so, io non ci penso in quei momenti lì, un cuore è un cuore. 800 24 00 24, vi do il nostro numero verde, perché questi racconti del professor Remuzzi toccano noi, toccano il cuore, ciascuno di noi può fare, come suggeriva, le proprie riflessioni, ma una riflessione volevo condividere con lei. Tutto questo è possibile, professor Remuzzi, solo grazie ai donatori di sangue. Ah, questa è una cosa importantissima. Sapete che dei donatori di sangue non si parla mai, o si parla pochissimo. Noi adesso trapiantiamo il fegato, con un fegato trapiantiamo un adulto e un bambino. Adesso i nostri chirurghi per esempio quelli del mio ospedale hanno imparato fra i primi al mondo a dividere il fegato in due e usarlo persino per due adulti, quindi uno che lascia i suoi organi lascia due reni che consentono a due persone di non stare più in dialisi, un cuore a un diabetico di tornare a vivere, persino a due persone di vivere, un adulto, un bambino con un solo fegato. Eppure nulla di tutto questo sarebbe possibile senza i donatori di sangue. E di questo sono consapevoli i donatori abituali, perché si rendono conto che il loro dono è fondamentale. Questo pensiero dovrebbe spingere sempre più persone a diventare donatori da occasionali ad abituali. In linea con noi abbiamo Matteo Benci, che è coordinatore nazionale dei giovani della FIDAS. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno ascoltatori di Radio 24. Buongiorno Matteo. Per quelli di voi che ancora non lo sanno, ora passo a presentarvi la futura Mrs. Exclusive, Grace Carter. Eccola qua! Guardatela! Non è bellissima! Ha appena donato il sangue e ne ha ancora abbastanza per arrossire come una mammola. Eh sì, dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi al cielo, gente. Sono Bruce Nolan per Eyewitness News con tutti gli amici qui della donazione di sangue che vi ricordano... Sì, il tuo miracolo! Hai un bel compito: crescere le giovani generazioni di donatori. Di solito, devo dire, donatori sembra si nasca, perché ci sono famiglie intere di donatori, c'è una sorta di passaggio di testimone, ma bisogna arruolare nuovi. Bisogna arruolare, sì, è un brutto termine, ma che rende l'idea. Però funzionale, è molto funzionale, sì, assolutamente. Senti, Matteo, tu come sei diventato donatore? Come sono diventato? Sì. Allora, appena compiuti i 18 anni, sì, ho sentito un po', come dire, una spinta molto, molto forte, e mi sono recato al centro trasfusionale, che tra l'altro è molto vicino al centro prelievi. Mi sentivo in buona salute e ho detto, boh, ma che differenza c'è, insomma, perché non posso farlo? Allora mi sono recato tranquillamente. Anche perché devo dire che un amico dei miei genitori è donatore, quindi ha detto, insomma, se lo fa lui, sono in buona salute, sto bene, ho parlato con il mio medico, ha detto che non c'è nessun problema, e via. Ho detto, allora vado, ho perso 10 minuti e ho donato la prima volta, ed è stata, insomma, un'emozione, un'esperienza veramente, veramente unica. Allora, professore Muzzi, abbiamo detto che il sangue, noi dobbiamo andare tra poco ai mercati, ma abbiamo detto che il sangue è essenziale, no? Senza la donazione di sangue non si potrebbero fare trapianti, nulla si muoverebbe. Ma ci sono persone che proprio vivono, prima di parlare di trapianti, vivono proprio grazie alla donazione di sangue. Ci sono persone che dipendono dalla donazione del sangue per guarire. Per esempio, pensiamo ai malati di leucemia, tanti sono bambini e tanti di questi malati stabiliscono un rapporto ideale, straordinario, col loro donatore. Per esempio i donatori di piastrine, queste persone fanno una chemioterapia che riduce il numero di piastrine a quasi zero, e in quel periodo, finché il midollo non riprende a funzionare, hanno bisogno, dipendono, la loro vita dipende dai donatori, e la donazione di piastrine è molto più complicata che la donazione di sangue. E queste persone delle volte hanno un loro donatore, perché hanno bisogno di tantissime trasfusioni, e quel donatore lì per loro è la loro vita, si stabilisce qualcosa tra queste persone con la leucemia, che poi guariranno per fortuna la maggior parte di loro, e il loro donatore, che è veramente qualcosa che fa riflettere sul significato della vita e delle cose importanti della vita. Essere e benessere. Vive veramente chi è utile all'umanità e sa usare se stesso. Seneca. Matteo, sei ancora con noi? Sì, stai lì, perché volevo leggere ai miei ascoltatori un messaggio che ci manda Ernesto e che penso farà piacere anche a te, Matteo. Sono precipitato da una scala e ho perso la milza e altre lesioni. In quell'occasione mi hanno trasfuso 17 sacche di sangue. Come avrei fatto senza? Grazie a tutti i donatori, miei figli compresi. Ernesto. Abbiamo in linea con noi Antonella dalla provincia dalla provincia di Padova e Marco dalla provincia di Milano. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, mi scusi, sono emozionata. No, è un'emozione parlare con voi, perché mi piacete, mi piace molto la vostra trasmissione. Va bene, grazie. Dunque, io ho sentito così il desiderio di chiamarvi perché sono diventata donatrice di organi tantissimi anni fa. Sì. Ed ero ancora minorenne. E quindi ho dovuto far firmare i miei genitori, e parliamo di 30 anni fa. E questo è stato merito comunque a un incontro che avevamo avuto a scuola. Io frequentavo un liceo sperimentale. Sì. E sono venuti a scuola così dei rappresentanti dell'associazione donazione organi, e ci hanno così entusiasmati, cosa che ho talmente tanto insistito che i miei genitori, che erano molto perplessi all'epoca, perché sì, parliamo di tanti anni fa, che hanno firmato il consenso. Poi le cose sono cambiate nel tempo, però io credo che sia importante portare il messaggio ai ragazzi, comunque sì, ai giovani, infatti, che sia fondamentale, perché comunque noi a volte tendiamo a pensare sempre ai ragazzi come così, i ragazzi con la testa tra le nuvole, che hanno in mente solo invece in realtà i ragazzi sono il nostro futuro. Antonella, intanto noi ci rivolgiamo ai ragazzi ma anche agli adulti, perché intanto grazie Antonella per essere intervenuta, perché professor Remuzzi, naturalmente l'invito a diventare donatori di sangue, di organi, di midollo è rivolto a tutte le persone, uomini e donne, giovani e meno giovani, anche se poi ci sono dei limiti entro cui si può donare. Sì, anche se adesso i limiti li stiamo allargando molto. Quello che abbiamo fatto è, per esempio, nel caso del rene, quando noi abbiamo un cadavere di una persona che è anziana, una volta gli organi non si utilizzavano perché la gente pensava e i medici pensavano che organi di persone che erano morte avendo più di 50-60 anni non potessero andare bene. In realtà abbiamo visto, per esempio, che se ne possono trapiantare due nello stesso ricevente, due sì, organi non perfetti, naturalmente che non fanno, si tratta, che fanno due il lavoro al posto di uno. E questa è una cosa straordinaria. Pensate che in questi giorni una persona di 80 anni nel mio ospedale ha ricevuto due reni di una donna morta di emorragia cerebrale che aveva 80 anni, una cosa che poco tempo fa sarebbe stata inimmaginabile, e questo ricevente sta benissimo. Andiamo a Marco dalla provincia di Milano e poi torniamo a Matteo Benci. Marco, buongiorno. Buongiorno, sono provincia di Monza, non di Milano. Sì. Io ho donato un midollo e, come dicevo, penso di aver fatto l'unica cosa, una delle rare cose giuste nella mia vita, e sono stato bene dopo averlo fatto. Vi ricordate quel film dove dicevano che se salvi una vita salvi l'umanità? Sì, io questa frase non mi ricordo il film, ma il titolo, ma l'ho sentita anch'io. Perché questa persona che io non conosco, magari avrà dei figli, che avranno dei figli, certo, che creerà, cioè non ho donato a una persona, ho donato a tante persone a questo punto. Pronto? Marco? Marco, sì. Sì. Quindi Marco, lei le è scattato questo click e si è sentito bene, non ha avuto paura, non ha sentito qualcosa dentro di sé che la spingeva a farlo? L'ho sentito quasi come un mio dovere, che io sarò anche matto, però è così. No, abbiamo bisogno di tanti matti come lei. Matteo, a commento dei nostri interventi, hai formulato un appello, io ho detto per i giovani donatori, ma non mettiamo limiti all'età. Non solo, benché i giovani comunque rappresentano quella fascia della popolazione che sarebbe più indicata ovviamente da sensibilizzare, però non solo. Mi rendo conto che fare un appello non è sempre facile, certo, e mi rendo conto che attraverso un appello non si può superare una paura o un timore di un ago. Mi rendo conto che attraverso un appello non si può, per esempio, spostare un impegno e trovare un paio d'ore per andare a donare, e mi rendo conto che attraverso un appello è difficile convincere quelle persone ad andare a donare, perché tanto che sanno che ci sono già altre persone che lo fanno. Allora lanciamo questa sfida, Matteo. Io invito i miei ascoltatori che in qualche modo sono stati toccati dalle parole di Matteo Benci, da questo appello non appello, a scriverci per vedere se qualche cosa magari in loro si è mossa e hanno deciso perché non diventare donatore di sangue. Grazie a Matteo Benci, grazie, buona fortuna. Giornata. Professor Remuzzi? Ma abbiamo sentito prima, se salvi una vita salvi tante vite, questa è una bella frase che uno si può chiedere come è possibile. In realtà proprio in questi giorni succede una cosa che dice che è possibile. C'è un articolo sul New York Times bellissimo che racconta di un chirurgo fantastico che io conosco, si chiama Montgomery, lavora vicino a Washington. Questo uomo qua, che tra l'altro è un bellissimo uomo, ha fatto una cosa di questo tipo. L'articolo del New York Times dice 60 vite, 30 reni, tutti legati insieme. In realtà c'è un donatore, sì, il quale vuole donare perché decide di donare a una persona che non conosce, e dona il rene e non si sa a chi è il ricevente. Quel ricevente lì è uno che aveva un donatore vivente, ma il rene del suo donatore non andava bene per lui. Invece andava bene per lui questo di questo donatore sconosciuto. Quello allora va a un altro ricevente, il quale ha un suo donatore che non va bene per lui, questo va a un altro il quale ha un suo donatore, e Montgomery ha fatto questo salvando 60 vite, sottraendo la dialisi, 60 vite con 30 donazioni, una cosa straordinaria. Noi abbiamo detto che la donazione è anonima, ma non tutte le donazioni lo sono, ci sono casi in cui il donatore e il ricevente possono guardarsi negli occhi. Succede nel trapianto da donatore vivente. Sebbene la maggior parte degli organi da trapiantare provenga da donatori di cadaveri, negli ultimi anni è possibile prelevare organi da donatori viventi, nel caso di trapianto di rene, che è stato, mi sembra, il primo, polmone, fegato e pancreas. In linea con noi abbiamo Gianni Dall'Aglio, che tutti voi conoscete, è un grande batterista, il batterista dei Ribelli. Gianni, ciao, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti, grazie tante. Tra l'altro ho saputo che tu eri presente, dato che sei suoni per Celentano, quando il professor Remuzzi nella trasmissione ha parlato con Celentano a proposito delle donazioni. Sì, mi ricordo. Per cui vedi che a essere benessere si ritrova, tutto torna. Essere benessere. Eccoci tornati insieme, storie di donatori. Gianni, tu hai donato un rene a tua moglie. Sì, io ho donato un rene a mia moglie nel 2008. Posso dire una cosa, innanzitutto penso l'informazione in questi casi sia la cosa migliore. Infatti voglio ringraziare il professor Muzzi, già lo conoscevo comunque per quello che fa e quello che farà, sì, ma bisogna fare sempre tanto, perché questo è un tema molto, molto particolare di cui si ha un gran bisogno e se ne parla troppo poco. E io personalmente non sapevo allora che avrei potuto donare un rene a mia moglie, ed è stata proprio una coincidenza, un caso, perché ricorderò sempre, eravamo agli sgoccioli, mia moglie sarebbe dovuta entrare in dialisi, questa parola che mi ha spaventato per anni, la dialisi, per anni, perché sapevamo che c'era questa spada di Damocle lì. Certo. E ricordo che appunto dal dottore, una delle ultime visite, non c'era niente da fare, ormai il destino era quello di andare in dialisi. Sì. E io ricordo che in quel momento avevo detto, proprio sconsolato, dico: dottore, ma è possibile che non c'è niente da fare? Non so, guardi, io se potessi lo darei io un rene. E mi è uscita così sta cosa, no? Sì. E da quel momento, appunto, il nefrologo, in modo molto gentile, mi ha detto: ora, signor Dall'Aglio, se lei vuole, noi possiamo fare tutta una serie di esami. Se lei supererà questi esami, la cosa si può fare, sa, si può fare veramente. E allora da quel momento, naturalmente non senza tutte le cose correlate alle emozioni, perché nel tempo ero convintissimo e felicissimo. In un secondo tempo ho avuto un piccolo ripensamento che ho risolto in una notte molto tormentata, che appunto sono andato davanti allo specchio, mi sono guardato e dico, ma insomma, ma che cosa stai facendo? Ma perché tu hai detto di sì quella sera? È stato perché tu ami tua moglie, perché tu vuoi che torni a fare una vita bella, normale. E allora a questo punto, dopo quella piccola crisi, diciamo, sono partito decisamente a fare questo percorso, nel quale mi sono affidato principalmente alle persone competenti con cui ero vicino, ma anche a quella fede che ho sempre cercato, certo, nella mia vita, e che ho trovato definitivamente in questo atto, cioè in questo atto di amore che un grande Gianni, quello che ci racconti è veramente una storia d'amore. Professor Remuzzi, il trapianto di donatore da vivente è assolutamente una strada che ci permetterebbe di svoltare un po'. È una strada che ci consentirebbe di fare molto di più di quello che noi facciamo. Purtroppo noi abbiamo soltanto l'8% di trapianti da vivente, mentre negli Stati Uniti in Olanda sono il 50-60%. Però ecco, qua ci vorrebbe Celentano. Ci vorrebbe anche i nefrologi che abbiano un pochino più di coraggio, perché io penso che queste cose vadano... Di solito i nefrologi aspettano che uno chieda, ma forse potrei. Invece si può dire, e si può, poi uno se non se la sente, non se la sente. Dice, questa è una storia meravigliosa. Questa è una storia meravigliosa, come è meravigliosa la storia di Elisabetta, che è in linea con noi. Elisabetta è una ragazza giovanissima, sta frequentando l'ultimo anno del liceo scientifico a Verona. Elisabetta, ciao. Buongiorno. In questo momento è in presidenza. Perché Elisabetta è qua? Perché noi abbiamo parlato di giovani e di dono. Pensate che Elisabetta è una giovanissima donatrice di midollo. E com'è successo, Elisabetta? Una storia, no? Sembra una storia assolutamente normale. I volontari dell'ADMO sono venuti nella tua scuola, hanno parlato, vi hanno in qualche modo informato, e tu, che eri appena diciottenne, cosa hai deciso? Io, insieme ad altri miei compagni dell'istituto, abbiamo deciso di andare a tipizzarci, quindi a diventare volontari per donare il midollo. Siamo andati insieme in ospedale, insieme ad alcuni appunto dottori, e ci hanno tipizzato, quindi siamo entrati in queste liste, in questi registri mondiali in cui appunto sono messi sopra i nostri codici del DNA, insomma tutte queste cose, in modo tale da cercare la compatibilità con persone più che altro malate di leucemia, più che per altre malattie, perché col midollo si guarisce più che altro la leucemia. E quindi appunto ci siamo iscritti in questi registri, e la cosa strana è che appunto la probabilità di trovare un donatore è quella di 1 su 100.000, quindi di trovare una persona compatibile. E appunto la mia avventura è stata quella di essere stata chiamata, quindi di aver trovato un paziente dopo neanche un mese dal momento in cui mi ero tipizzata. E ovviamente all'inizio un po' di timore c'era, perché non sapevo bene a cosa stavo andando incontro, però ho affrontato tutto con molto coraggio e consapevole di star salvando una vita che solo io potevo salvare in quel momento a quella persona, e che nessun altro avrebbe potuto fare al posto mio. E quindi... E queste sono storie. Noi oggi ne abbiamo raccontato alcune, molti di voi ci hanno scritto la storia di Gianni Dall'Aglio, che dona il rene a sua moglie, sottolineando anche quella notte in cui, guardandosi allo specchio, si è chiesto ma che cosa ti è venuto in mente, ma poi ha vinto l'amore, la generosità, la voglia di dare alla sua compagna una vita assolutamente normale. Elisabetta, che potrebbe essere la figlia di tutti noi, così piccola, che decide di raccogliere la appello dei volontari e dire ci sono anch'io. Grazie ad Elisabetta e a Gianni Dall'Aglio per essere stati con noi, per averci raccontato le vostre storie che toccano il cuore e muovono forse dentro di noi quel piccolo volontario che sonnecchia, ma io sono sicura che si risveglierà. Grazie a tutte e due. Grazie. Grazie, arrivederci. Ci sono tanti modi per parlare di donazione, credo sia importante, lo stiamo cercando di fare anche noi, trovare formule nuove che arrivino al cuore della gente, ad esempio utilizzando insieme alle parole vocale, la musica e le voci. C'è un progetto fresco di stampa che si intitola Tutta colpa dell'amore. È stato ideato da Roberto Ferri e ha messo insieme scrittori come Henry De Luca, attori come Piera degli Esposti. A Roberto Ferri una breve intervista sulla nostra pagina di Essere Benessere, ma si trova in libreria e tutti i proventi della vendita del CD più del libro verranno devoluti agli organismi medico-scientifici specializzati in questo campo, in particolare alla FIRE, alla Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia e all'Associazione Nazionale Trapiantati di Fegato. Corro, grazie professor Remuzzi. Grazie a voi. Grazie a lei, buona giornata. Essere e benessere.